Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, venerdì scorso abbiamo ricordato il secondo anniversario dell'elezione di Papa Francesco. Era tutto cominciato così. Frates carissimi, conscientia mea iterum ad vitrum coram Deo explorata, ad conditionem certam perveni, viris mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus petrinum eque administrandum. Qua propter bene consus pontes hus actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore sancti Peti, renunciare ita da die vicesimo octavo februari bis millesimo tredicesimo ora vicesima. Era Benedetto XVI che annunciava le sue dimissioni, e a quel drammatico passaggio clamoroso e inedito nella storia della Chiesa ha ispirato due opere narrative, due libri che curiosamente hanno un titolo molto simile e anche descrivono una situazione assai simile fra di loro. Il primo libro, che è uscito già da qualche mese, è Rinuncio, di Davide Brullo, che è uno scrittore, giornalista, traduttore di libri sacri. Questo libro è pubblicato da Guaraldi, 136 pagine, 12,90 €. In questo romanzo, in questo lungo racconto, Benedetto XVI non si trova dopo le sue dimissioni in Vaticano, ma sostanzialmente è stato esiliato, se non vogliamo dire addirittura rinchiuso, in un romitorio dell'Ordine dei Serviti in Valdossola. Qui Benedetto XVI morirà in silenzio, non godrà delle esequie dovute ai pontefici, e la sua stessa salma sarà celata dal Vaticano, che ha fatto di tutto per far sparire la memoria del Papa di missionario. Ma nel convento Benedetto XVI continua a meditare, a scrivere anche lettere che non gli fanno spedire, a pregare, a fare annotazioni perfino sulle lenzuola, e uno dei frati recupera questi scritti e in questo libro li pubblica, offrendo così un quadro in certi tratti sconvolgenti, drammatici, dell'ultimo Ratzinger, che spiega in modo clamoroso le proprie dimissioni. La mia rinuncia, scrive Brullo, mettendo in bocca a Ratzinger queste parole, è stata una richiesta. Voi chi credete che io sia? Cosa credete che sia la Chiesa? E ritorna spesso nel libro e negli appunti del Ratzinger descritto da Brullo un'immagine inquietante, quella dei lupi, che affligge i sogni e l'immaginazione del vecchio Papa, confortato solo dalla presenza di una ragazza che viene a massaggiarlo. Il secondo libro, pubblicato recentemente, è Renunzio Vobis, di Sergio Claudio Perroni, pubblicato da Bompiani, 102 pagine, 15 €. Anche qui abbiamo un vecchio papa dimissionario, il nome non viene fatto, ma riconosciamo immediatamente Benedetto XVI, che anche qui si trova non in Vaticano ma in un'abbazia nella quale si è ritirato. In questa abbazia remota intreccia un dialogo con un frate che lo interroga sulla sua decisione, e ne nasce appunto uno scambio di opinioni che, e qui sta la particolarità di questo libro, è tutto ricavato, il dialogo, da citazioni di testi sacri, Bibbia e Vangeli. Quindi troviamo i versetti dei libri scelti per comporre un dialogo, e naturalmente i versetti hanno tutte le citazioni per recuperare il testo di riferimento. Emerge quindi da questa costruzione drammatica, da questa dialettica tra frasi estrapolate dai testi sacri, un conflitto intenso e drammatico col vecchio papa, che cerca di farsi scusare, di farsi perdonare dal frate, che al contrario lo incalza e lo critica per la decisione che il vecchio pontefice aveva preso di dimettersi, una decisione che può assumere anche il carattere di una fuga. Ma sentiamo su questo l'autore. Buonasera a Sergio Claudio Perroni. Buonasera. Sergio Claudio Perroni, questo vecchio papa che si è esiliato in un monastero, è più Celestino o più Benedetto XVI? Ma questo dipende da chi legga. Credo che sia più vicino in ogni senso, nel senso cronologico, ma anche nel senso di esperienza, l'ultimo papa, l'ultimo rinunciatario, quindi Ratzinger, il dottor Ratzinger. Il dottor Ratzinger. Lei con Ratzinger è molto duro, col Ratzinger di questo libro, o meglio, l'ospite con Ratzinger è molto duro, lo esprime con sfoga, appunto facendo sempre riferimento ai versetti biblici ed evangelici, una sua forte contrarietà alla decisione che ha preso il vecchio Papa. Ecco, addirittura lo condanna espressamente, gli dice: tu sei stato pesato sulla bilancia e sei stato trovato mancante. Ecco, questo giudizio corrisponde al suo giudizio su Ratzinger? No, io non, cioè, a me interessava molto la figura di questa appunto dottore, dico, perché rientra tra i dottori della legge che la insegnano, ma poi all'atto del praticarla ne rifuggono, e quindi mi interessava molto questa figura di sommo rappresentante e al tempo stesso insegnante di una dottrina che porta all'esempio come sacrificio, nel sacrificio per sopportare la vita e anche la morte, che però all'atto del sacrificio si ritira. Quindi mi interessava molto il potenziale drammaturgico del conflitto emotivo che c'è in ogni rapporto con la propria coscienza e con le proprie fughe, perché tutti noi, perché rappresenta quello che facciamo noi nel nostro piccolo di fronte alle nostre rese, che ce le raccontiamo sempre in maniera più nobile di come non sia. Quanto al confronto con l'ospite, non sono io, ma direi di più, è lo stesso vecchio, cioè è un rapporto con la coscienza. Questo tipo di rapporto intendevo rappresentare io, perché noi stessi, quando abbiamo a che fare con le rese di cui dicevo, ci diamo delle versioni diverse, abbiamo un foro interiore che è la cosa più interessante. In questo foro interiore del vecchio ha un grande peso la difficoltà che il vecchio stesso confessa molto frequentemente, molto eloquentemente, nell'esercitare il suo ministero. A un certo punto scrive: l'anima mia era in mezzo a leoni, dimoravo tra gente che vomitava fiamme, in mezzo a uomini dai denti come lance e saette, con la lingua come una spada affilata. Insomma, questo povero vecchio, questo dottore, come lo chiama lei, era quasi smarrito nell'esercizio del suo ministero. Che secondo lei Ratzinger corrisponde a questo profilo? Era proprio così smarrito? È stata questa la scelta che ha fatto? Beh, è quello che risulta a noi pecorelle del gregge, ed è anche in parte quello che lui stesso ha detto nella dichiarazione con cui ha annunciato il proprio ritirarsi. C'era un pondus troppo pesante per la sua ingravescente età, e quindi non ce l'avrebbe fatta a resistere. Per noi è stato un bene, perché ci ha portato finalmente a un Papa che rimette in piedi il cristianesimo, come è stato detto da un filosofo recentemente. Quello che serve è rimettere in piedi il cristianesimo, e lo sta rimettendo in piedi, mentre prima di lui era genuflesso nel senso deteriore del termine. Sì, su questo poi c'è molto dibattito, come sappiamo, perché non tutti sono così convinti. Comunque è interessante questa apertura al dopo. Ecco, lui, il vecchio, viene rimproverato per il suo timore, nel senso che l'ospite gli rinfaccia il fatto che il timore, come scrive, non è che rinuncia al soccorso della ragione, quindi in qualche misura non giustifica la scelta del vecchio. Ma qualsiasi rinuncia a dare un esempio, soprattutto se si insegna l'esempio, dettata dal timore, è la rinuncia a quella ragione che non è l'opposto, come spesso si cerca di far passare, della trascendenza, anzi è la sublimazione del rapporto che abbiamo con la trascendenza, e quindi, ma soprattutto, ancora una volta, nel momento in cui insegni qualcosa, che poi sia condivisibile o no, ma se tu sei insegnante di qualcosa, se tu fai strada ad altri su una certa dottrina, è su quella che devi essere coerente. E se non sei coerente su quella, non è un giudizio morale, ma è un vacillare del tuo insegnamento. Nell'utilizzare i testi, i versetti dei testi sacri, che cosa ha scoperto? Nel senso, è semplicemente un'antologia questo suo racconto? Oppure il ricorrere appunto a dei testi tratti dalla Bibbia e dal Vangelo le ha offerto una chiave di lettura particolare? Ma è la forza di tutti i classici, la Bibbia è il più classico dei classici, quello di poter raccontare con parole antiche ma comprensibili e fiammanti, oserei dire, perché la bellezza lirica di alcuni libri della Bibbia è straordinaria, di raccontare l'oggi, alcuni passaggi che ha citato lei, ma altri se ne possono trovare nel libro, sembrano scritti adesso. E il loro parlare, il loro confrontarsi, il loro e degli altri personaggi di contorno con versetti, parlando, esprimendosi unicamente con versetti della Bibbia, non è solo un loro essere intrisi di quella cultura, ma è un ricorso immediato più istintivo che cognitivo, come se fosse la Bibbia e quella dottrina e quei precetti fossero un lessico comportamentale, che poi è quello della scienza del vivere e quindi anche del morire. E l'intercalare nel testo di queste citazioni artistiche, che cosa rappresenta? Ma era una coscienza figurata, diciamo, sono delle costruzioni di opere che popolano l'ambiente in cui si svolge la vicenda, e che rappresentano figure classiche o religiose, Eva, la Trinità, Cristo, però secondo punti di vista di questi artisti inventati, inediti nell'iconografia tradizionale, che non fanno altro che rinforzare questo o quel passaggio del romanzo, rinforzare visivamente, per questo dico la coscienza figurata, uno per tutti, Giuditta che si specchia nelle pupille di Oloferne morto, e in realtà è contenuta, il carnefice è contenuto nella stessa vittima, ed è una metafora abbastanza lampante della colpa, del castigo che è contenuto nella stessa colpa. Grazie a Sergio Claudio Perroni, autore di Renunzio Vobis. Buona serata. Grazie a voi. Per la verità non tutti condividono l'entusiasmo di Perrone a proposito di Papa Francesco. Per esempio c'è un giornalista molto famoso che ha scritto un libro molto polemico nei confronti di Francesco, Antonio Socci. Il libro si intitola Non è Francesco, la Chiesa nella grande tempesta, è pubblicato da Mondadori, 284 pagine, 18 euro. È un libro molto preoccupato su quello che è lo stile e i contenuti del pontificato di Papa Bergoglio, che addirittura giunge a mettere in discussione la validità stessa della sua elezione. Socci spiega di non essere prevenuto nei confronti di Bergoglio, anzi di aver salutato con grande favore la sua elezione, sperando che essa potesse rinnovare la Chiesa, ma poi non nasconde la sua delusione per molte scelte dottrinarie che il Papa ha fatto e che preoccupano molto l'autore di questo libro. In particolare Socci si sofferma proprio sulle conseguenze della rinuncia di Benedetto XVI, parla di un mistero della rinuncia e affronta tutti i nodi legati a questa inedita, incredibile situazione creatasi nella Chiesa, in cui ci sono due papi, perché Ratzinger è rimasto papa pur assumendo la carica di papa emerito, una situazione appunto che non si era mai vista prima. E non nasconde Socci anche la sofferenza di credente di dover scendere in campo contro il papa, e l'attesa che non si nasconde di attacchi che potrà ricevere per queste tesi che vanno certo contro una opinione favorevole molto diffusa nei confronti di Papa Bergoglio. E a questo punto il confettino. Rimaniamo in argomento papale con un libro che spiega che cosa è il Papa, che cosa fa, come svolge il suo ministero, e in particolare ovviamente si sofferma sulla figura di questo Papa, di Papa Francesco. Il libro si intitola Il Papa raccontato ai ragazzi, di Fulvia degli Innocenti, illustrato da Silvia Colombo ed è pubblicato dalle Paoline, 42 pagine, 13 euro. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Parliamo adesso di politica, soprattutto della destra italiana. Recentemente si parla sempre più frequentemente delle tendenze che stanno maturando nella destra, che sembra smarrita, nella quale prevale Salvini, il quale Salvini non nasconde il desiderio di coltivare temi molto populistici, come si chiamano adesso. Insomma, siamo probabilmente alla vigilia della decisione definizione di una nuova destra e quindi di un cambiamento complessivo della politica italiana, un cambiamento che del resto riguarda un po' tutti i sistemi, perché appunto i movimenti populisti stanno avendo grande successo in tanti altri paesi europei e naturalmente questo non fa che consolidare Renzi e quindi fa crescere gli interrogativi su quelle che possono essere le sorti, il destino degli eredi di Berlusconi. Allora, il loro destino è segnato in parte da una storia di sostanziale irrilevanza della destra italiana. Almeno così ricostruisce queste vicende un grande giornalista, Giampaolo Pansa, in La destra siamo noi, controstoria da Scelba a Salvini, pubblicato da Rizzoli, 408 pagine, 19,90 €. La società italiana nel dopoguerra aveva superato, secondo Pansa, le divisioni della resistenza, che invece restavano insuperabili nell'arena politica, nella quale non c'era alcuna possibilità di dialogo tra il movimento sociale, quello che allora era la vera destra, il movimento neofascista, e tutti gli altri partiti. E quando scoppiò la contestazione, il divario fra destra e sinistra tornò a dividere anche la società italiana, con scontri e vittime tra le due parti. A un certo punto, quando Berlusconi sdoganò, come si disse allora, la destra, affermando che se fosse stato Roma egli avrebbe sicuramente votato come sindaco Fini, e lo stesso Berlusconi fu per quelle parole considerato un fascista, ma secondo Pansa fascista naturalmente Berlusconi non era, lo definisce così, era sì un uomo di destra, ma di una destra aliena dalla violenza fisica, incline a promettere molto e mantenere poco. E un merito, secondo Pansa, va riconosciuto a Berlusconi, lo cito: forse senza rendersene conto, il Cavaliere ci obbligò a riesaminare con attenzione la topografia della politica e della cultura italiane, per disegnarla con criteri più moderni, realistici ed europei su un asse semplificato, sinistra e destra, liberandoci dal vecchio schematismo diventato una trappola, la contrapposizione tra fascismo appunto e antifascismo. E oggi infatti destra non è più sinonimo automaticamente di fascismo. E allora Pansa, facendosi guidare da un accompagnatore di fantasia che gli permette di animare attraverso dei dialoghi questo libro, il personaggio, il suo Virgilio, un vecchio poliziotto novantenne che aveva avuto a lungo a che fare con gli scontri politici, Pansa, dicevo, parte dal 1945 in questo viaggio nella destra, nel quale incontra tanti personaggi della politica italiana, ma non soltanto politici, ci sono anche giornalisti, finanzieri, imprenditori, c'è per esempio Cefis, che successe a Mattei nella guida dell'ENI, al centro di tante leggende, considerato un autoritario anche per certe proposte di riforma costituzionale che adesso Renzi sta cercando di attuare. C'è Romiti, qui fotografato come padrone del Corriere della Sera, e tanti altri personaggi. Dicevo, il libro finisce nel 1994. Con Indro Montanelli, un grande personaggio di destra, definito da Pansa Papa Cilindro I, e una sorta di appendice poi troviamo nel libro sull'attualità, dedicato appunto a Matteo Salvini, che Pansa definisce il bomber leghista, l'ultimo volto della destra italiana, una destra vincente e non perdente. E ce ne dà di Salvini un rapido ed efficace ritratto, come illustrano le ragioni del reciproco innamoramento con la signora Le Pen, un innamoramento che comunque finirà per distinguerlo rispetto alle tradizioni della destra italiana. Infatti scrive Pansa che il capo del Carroccio è davvero un esemplare politico del nostro tempo, furbastro, volgare, pronto a sfidare il ridicolo pur di far parlare di sé. In lui non c'è più nulla della vecchia destra. E adesso sentite alcune righe tratte dal libro di Pansa, dedicate appunto alla trasformazione di Montanelli da uomo della destra più arcigna, che a un certo punto per il popolo di sinistra diventa un idolo quando decide di rompere con Berlusconi. Il magico Indro, nel procedere verso il tendone blu dei dibattiti eccellenti, sembrava una canna al vento, un lungo fuscello di cristallo, forte e fragile al tempo stesso, di una magrezza spettrale. Un signore di 85 anni che diventava altissimo nel sollevare le braccia da ragno. Un gesto quasi di resa con lo scopo di salutare la folla, ma anche per difendersi dall'entusiasmo dei compagni rossi. Erano gli stessi che l'avevano sempre odiato, Montanelli, con il medesimo livore rancoroso rovesciato su Giovannino Guareschi. Il direttore del Candido li disegnava con tre narici, accompagnati da donnacce pelose dotate di tre mammelle. Indro li fustigava quasi in ogni articolo, compresi quelli scritti con uno pseudonimo, Antonio Siberia, per un settimanale fascista dalla prima all'ultima riga, Il Borghese. Ma adesso gli stessi compagnucci o i loro figli e nipoti lo accoglievano come un eroe proletario e gli gridavano con un affetto strabiliante: «Vai, Indro, vai!» Salvini ritroviamo nel libro di un politologo, Marco Tarchi. Il libro si intitola Italia populista, e dal qualunquismo a Beppe Grillo, pubblicato dal Mulino, 380 pagine, 20 euro. Per la verità qui il giudizio su Salvini è forse più attendista rispetto a quello di Pansa. A Tarchi piuttosto interessa studiare, anzi qui aggiorna per la verità un'analisi già pubblicata alcuni anni fa, un filone nel quale si è espresso la destra italiana, quello appunto del populismo, che oggi, come dicevo prima, ha successo in tanti altri paesi d'Europa e che attira anche pezzi, segmenti di elettorato di sinistra, come dimostrano nel nostro paese alcuni exploit elettorali di Grillo. Il populismo è diventato un termine di moda, osserva Tarchi, non solo italiano, appunto, di cui si vuole qua individuare il grado di penetrazione effettivo nella nostra società, in un processo che è accompagnato in molti paesi da errori anche concettuali, secondo Tarchi, come quello di identificare brutalmente populismo e destra. E Tarchi comincia con uno sforzo benemerito, quello appunto di definire cosa sia questo famoso populismo, un termine che, come ricorda un grande politologo, Isaiah Berlin, è come la scarpa di Cenerentola, una scarpa che non si adatta mai a nessun piede, cioè a nessuno schema. È un fenomeno, quello del populismo, legato soprattutto alla capacità di un leader di porsi alla testa di un movimento che punta all'identificazione appunto tra leader e popolo, una concezione che naturalmente rischia di mettere in contraddizione democrazia e populismo, al quale la democrazia piace nella versione plebiscitaria. Tarchi esamina le varie ondate nelle quali il populismo si è manifestato nel nostro paese, perché appunto la tradizione è antica e queste tradizioni sono spesso presentate in alcune forme inquiete o problematiche, come quella qui simboleggiata per esempio da Cossiga. Si parla della Lega, si parla del successo dell'antipolitica, si parla del successo di Di Pietro e di Girattondi, fino ad arrivare a Grillo, populismo allo stato puro, come lo definisce Tarchi, perché vuole attivare energie popolari in grado di rovesciare il tradizionale rapporto rappresentativo e soprattutto il classico schema appunto destra-sinistra di cui abbiamo parlato nel libro di Pansa. Restiamo nella cronaca con la ricostruzione di una vicenda che ha fatto molto discutere sul funzionamento della giustizia nel nostro paese. La storia riguarda un'inchiesta, quella su Fastweb Telecom, per una presunta frode da 2 miliardi di euro. Un'inchiesta che si è conclusa con la piena assoluzione, dopo 3 anni di processo, degli imputati che avevano passato, tra l'altro, vari mesi in carcere. E uno di questi protagonisti racconta questo di sé, ai Mario Rossetti, che di Fastweb era stato, prima dell'inchiesta, direttore finanziario, il quale scrive con Sergio Luciano: «Io non avevo l'avvocato, una storia italiana», pubblicata da Mondadori, 148 pagine, 18 euro. Rossetti dunque racconta la sua avventura, purtroppo non isolata, come sappiamo bene, e racconta il dramma di un cittadino scaraventato da un giorno all'altro in un girone infernale, descrive la vita carceraria, ricorda i numeri della vergognosa condizione delle nostre carceri e fino al processo che lo ha riguardato. Il libro, la storia è intessuta di fatti e di episodi assurdi. Per esempio, a un certo punto Rossetti vengono sequestrati tutti i beni e la famiglia cade in grosse difficoltà, deve farsi aiutare da parenti e da amici per poter tirare la fine del mese, e a un certo punto lo Stato farà una multa di 7.000 euro al malcapitato Rossetti perché questi aveva ritardato il pagamento di tributi che lo Stato stesso avrebbe dovuto pagare, essendo lui Stato l'amministratore dei beni che aveva sequestrato a Rossetti. Quindi, oltre il danno, la beffa. E finalmente arriva la piena assoluzione con questa sentenza, una assoluzione contro la quale però la procura ha presentato ricorso, nonostante la sentenza non lasci molti dubbi su molte incongruenze che c'erano state nell'inchiesta e nel modo in cui era stata condotta. Ma forse, spiega Rossetti, questo accanimento della procura è finalizzata non tanto a ottenere un rovesciamento di giudizio quanto ad allungare i tempi per arrivare alla prescrizione e poter così affermare che la vicenda si è conclusa appunto per prescrizione, quindi lasciare un'ombra sul comportamento degli imputati e non invece restituire loro l'onore che verrebbe da una piena assoluzione confermata nei successivi gradi di giudizio. Insomma, questo libro rappresenta un duro giudizio sulla giustizia, sul modo in cui funziona in Italia, e rifacendosi a Falcone, Rossetti invoca perciò una accountability per i giudici, ossia la capacità, il dovere anzi di documentare, come spiega, rendicontare i risultati raggiunti, i modi in cui sono stati conseguiti e i mezzi utilizzati per il loro raggiungimento nei confronti della società. E anche il libro rappresenta un appello per modificare le condizioni dei carcerati che oggi, secondo l'autore, sono ridotti in Italia a autentiche anime morte. Un processo rimasto nella storia e conclusosi con una condanna che ancora fa discutere dopo 800 anni è quello ai Templari, che viene ricostruito nel libro di una nota storica del Medioevo, Barbara Frale, Crimine di Stato, la diffamazione dei Templari, pubblicato da Giunti, 190 pagine, 10 euro. Questa è una ricostruzione che nasce curiosamente da un fatto di cronaca recente clamoroso, il Sexgate, nel quale fu coinvolto il presidente Clinton, e il processo al quale fu sottoposto, un processo che iniziò esattamente nello stesso modo di quello condotto nei confronti dei Templari, ossia, spiega l'autrice, innescando una complessa strategia di diffamazione che utilizza quale punta di diamante lo scandalo sessuale per dimostrare l'indegnità dell'imputato. E in effetti, in un secolo come il 300, che era ricco di processi politici, i Templari, scrive l'autrice, furono messi in stato d'accusa dal re di Francia Filippo il Bello e trascinati in un processo per reati contro la fede che durò diversi anni, a seguito del quale l'ordine fu soppresso per decreto papale. Un vero paradosso, dunque, uomini votati alla difesa del sepolcro e della religione cristiana, paragonati addirittura ai martiri da un papa precedente, sono deliberatamente trascinati in un processo con gravissime accuse di reati contro la fede. E anche allora, spiega l'autrice, si trattò appunto di uno scandalo concepito su larga scala e condotto nel lungo periodo, una pianificazione articolata analoga a quella che contraddistingue il caso Sexgate. E quindi questa è la chiave del libro: studiare come allora fosse stata usata l'arma della diffamazione per distruggere l'avversario. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Carmelo Lauricelli, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, nel quale potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.